maledetto quello sciopero che han fatto i tramvieri, al lavoro sotto la pioggia ci è toccato andare a piedi. Maledetto quello sciopero che han fatto i tramvieri, al lavoro sotto la pioggia ci è toccato andare a piedi. E quando ci chiediamo perché mai, e noi che lavoriamo, che viaggiamo, quando il bus, la metro, il tramvai aspettiamo e non arriva mai. Maledetto quello sciopero che han fatto i tramvieri, al lavoro sotto la pioggia ci è toccato andare a piedi. Maledetto quello sciopero che han fatto i tramvieri, al lavoro sotto la pioggia ci è toccato andare a piedi. Non fermare il tuo pensiero così presto, chiediti il perché di tutto questo. Chiediti il perché ormai la busta né a te né a me né a loro basta. Se vai a vedere poi le ragioni perché i tramvieri hanno scioperato, vedrai ce n'è d'avanzo e l'operato è quello dell'azienda che va condannato. Di chi con una mano i soldi incassa, mentre con l'altra mano ci sconquassa, a noi con l'aumento sul biglietto, ai tramvieri con lo sciopero costretto. Maledetto quello sciopero che han fatto i tramvieri, al lavoro sotto la pioggia ci è toccato andare a piedi. Maledetto quello sciopero che han fatto i tramvieri, al lavoro sotto la pioggia ci è toccato andare a piedi. Quei signori che sono in alto non rispettano il contratto, sono lì per comandare con stipendi miliardari. Sono loro i parassiti della vil burocrazia che ci lasciano ammarcire con la pioggia nella via. Se lo sciopero ha causato malcontento e raffreddori, colpa è dei loro signori e non dei lavoratori. Maledetto quello sciopero che han fatto i tramvieri, al lavoro sotto la pioggia ci è toccato andare a piedi. Maledetto quello sciopero che han fatto i tramvieri, al lavoro sotto la pioggia ci è toccato andare a piedi. Non fermare il tuo pensiero così presto, chiediamoci il perché di tutto questo.